alla fine era fede. Molti mi dicono il potere dei sogni. Ho sempre cercato di fare quello che potevo. Troppi mi dicono il potere dei sogni. Proprio come Luis Sepulveda, preferisco le sigle. Molti mi avvisano il potere dei sogni. Che ti fa perdere, ti darà il carcere. Non so perché sia successo proprio a me. Ma la mia fiamma vuole ardere. Raffaele è pronto a registrare. Diego, passami sto beat che ci vado come un animale. E lasciami parlare, lo dico in ogni traccia. Se un lama è più sincero perché sputa tutto in faccia. E io sinceramente non so se parto da qui, perché non scrivo i miei sfoghi pensando a una tracklist. Check up the techniques, suono in the mix. Uno M beats, mangio qualche Ritz. Sogno il greatest hits, scrivo exit incomplete come i Backstreet Boys. Ma che vuoi dire? In verità proprio niente, tecnica di stile. Voglio cantare all night long come il caro Ricci. Ma credo che non mi ascolteranno neanche i miei amici. Per i miei colleghi, sempre tra virgolette, io faccio musica buona solo per le fighette. E per chi studia l'oboe e il galateo, non so parlare né cantare, sono un plebeo. Ammetto i miei limiti, sono onesto. Del resto, un vero uomo si vede da questo. Tipo adesso, volevo chiudere da figo con una punchline, ma non ci sono riuscito. Un'altra volta al punto d'inizio. Molti mi dicono il potere dei sogni. Sette anni, non è cambiato veramente. Troppi veramente mi dicono il potere dei sogni. Cioè, ok, io alla fine ho fatto quello molti che mi avvisano il potere dei sogni. Che ti fa perdere, ti darà il carcere. Non so, ma tu non sai cantare. Finito.